La memoria è un elemento che va tenuto sempre in allenamento, che basterebbe soltanto pochissimi istanti per dimenticare. Ogni anno è un qualcosa in più che dobbiamo costruire, non solo per piangere i morti che appunto la Shoah ha prodotto, ma soprattutto per costruire un futuro ai nostri giovani. Quindi è un dovere nostro, anzi un dovere di chi è rimasto, trasmettere a noi, e noi abbiamo il dovere di trasmetterlo alle generazioni successive per garantire che si ricordi, che il ricordo si mantenga anche nel futuro. Tra queste iniziative ci sono molte iniziative legate all'arte e quale può essere il contributo dell'arte nel ricordo di un evento come quello della Shoah? Tutto ciò che è manifestazione, rispetto e ricordo è fondamentale anche per il ricordo della Shoah. Non dimentichiamoci che anche nei campi di sterminio ci sono stati persone che hanno mantenuto quello che era la musica, l'arte, il disegno, qualsiasi tipo di manifestazione dell'essere umano può essere un qualcosa che sia civile, chiaramente, o qualcosa per costruire un futuro e ricordare la Shoah.